Quando arrivo coi fra, quando rimo con fra, quando giro in città, ti ho sentito e ci sta, ma sai che Simo ti fa, sono un mastino vital. Oh, non sono mai stato meglio, oh, uomo hai mai fatto di meglio. Sempre stato un torello, m'hai scappato un duello, m'hai abbassato il livello, m'hai mancato all'appello, m'hai inculato, m'hai infamato e m'hai mollato un fratello. Spostati, perché noi siamo spostati, col rap amore vero infatti siamo sposati. Voi rapper veri sappi che ora sono contati, parlate di soldi e puttane siete scontati. Boss e shot, lo faccio grosse e stop, Cico io so il boss, chiudo le strofe al top. Le strade sono nostre, Beds blocks, i live sono sommosse, Black block. Sto con Franco uscito, sto con Franco uscito, se sto Franco uscito, rap è tanto uscito, grano dando uscito. Col mio branco uscito, sarò franco uscito. E se c'è Franco, zitto. Atomico come una bomba, prepara la tomba, c'è il tuo funerale. È logico, Simo ti sfonda con una testata nucleare. Non voti con i miei negri, no zio, no. Ma è stato meglio, tu mai avuto sto flow. Gira pizzo solo coi miei bro. E se ti rode, basta di fissa, così ti passa un po'. Così ti passa un po', ti passa un po', così ti passa un po', ti passa un po'. Mai stato meglio, mai stato meglio, mai stato meglio, tu mai stato sveglio, mai stato meglio, mai stato meglio. Stato meglio, tu mai stato a tempo, fratello. Le cose che passo le passano in pochi. Che è vero e che è falso lo vedi dagli occhi. Mi senti rintocchi, no, il mio cuore è morto. La vita che ho fatto, zio, non me la scordo. Partiti dal basso, ma puntiamo al mondo. Puoi farmi fuori, non sei ancora pronto. I soldi, la piazza, la faccia, non li perdo come tatu sopra il corpo. Rezzo è sporco, diamante del borgo. Partiti dal fondo, con le unghie nere, il quartiere da sfondo. Aspettando il giorno che sfondo, aspettando il giorno che muoio. Mamma prega per me, in strada i miei neghi mi coprono le spalle. La volante alle calcagne, ci dici qualcosa, alziamo le spalle. Ci dici qualcosa, alziamo le spalle. Mai stato meglio, mai stato meglio. Tu mai stato sveglio. Con i pacchi dentro gli spac, faccio sempre tu istant. Flow terrorista islam. Il mio rap da voi quanto dista, il mio rap da voi quanto dista, il mio rap da voi quanto dista, il mio rap da voi quanto dista, il mio rap da voi quanto dista. Non voti con i miei negri, no zio, no. Ma è stato meglio, tu mai avuto sto flow. Gira pizzo solo coi miei bro. E se ti rode basta di fissa, così ti passa un po'. Così ti passa un po', ti passa un po', così ti passa un po', ti passa un po'. Mai stato meglio, mai stato meglio, mai stato meglio, tu mai stato sveglio, mai stato meglio. Cresciuti tra i quartieri di città, basta un chilometro e cambia realtà. Io vedo gente sopra il bus, altri sopra il su, qua più odio più disparità. Ma sta roba fra la spingo su, su, le tipelle fanno mentre stai lì su YouTube, tu, non parlarmi di New School. C'è, c'è, che bello bruschi qui, questo MC, flow maiuscoli, con più muscoli. Sarà per i troppi pesi, abituati al gelo come gli eschimesi. Ci siamo anche se non ci vedi, anche se non ci credi. Sempre in piedi di quest'arte eredi, fuori dagli schemi. Non ci scendi da qua, fra veri nell'infamità. Tra ti venerebbe l'anima per la tipella che ansima. Poi prosciughi al banco ma ti riempie di bla bla bla. Come chi blaterà, castita una pornostar. Mamma Mike, datti una calmata, da dai acqua passata. Ma c'ho il cuore arrugginito da ogni lacrima versata. Certa gente mi vorrebbe morto, prima o poi le accontenterò. Ma ora no. Perché ho ancora troppe cose da dire per ribadire che non me ne andrò in silenzio. Lascio l'impronta o almeno io tento. Fesso sclero ma non me ne pento. Certa gente mi vorrebbe morto, oh, ma non mi tolgo di torno. E prima o poi ce la farò. Io lo so, io lo so.